Radio 24 Reportage. Venezia, 500 anni del ghetto ebraico, di Silva Menetto. Quella che raccontiamo oggi è una storia che parte da molto lontano, da 5 secoli fa. Era il 29 marzo 1516 e il Senato della Repubblica di Venezia, sotto il doge Leonardo Loredan, decreta che tutti i giudei che vivono in città debbano abitare obbligatoriamente in una zona recintata e sorvegliata presso San Girolamo a Canareggio. Nasce così il primo recinto degli ebrei nella storia. Aser lo chiamano loro, ma il mondo imparerà presto a conoscere quel luogo come ghetto, parola che ancora oggi è sinonimo di segregazione e di isolamento. Eppure, ghetto non è altro che un toponimo che in origine non aveva niente a che fare né con gli ebrei né col concetto di emarginazione. La parola nasce qui, a Venezia, perché la zona che viene destinata agli ebrei è quella del getto de rame, il luogo in cui si gettano i residui di lavorazione delle fonderie. Pronunciato dagli ebrei aschenaziti provenienti dal nord Europa, getto diventa presto ghetto ed ecco spiegata l'origine del termine. A 5 secoli dalla nascita di quel primo ghetto della storia, la comunità ebraica veneziana ha ritenuto doveroso ricordare quella data fatidica, ma il presidente della comunità, Paolo Gnignati, ci tiene a sgomberare il campo da ogni possibile equivoco. Perché ovviamente non c'è nulla da festeggiare a dire che si è stati rinchiusi. L'unica cosa che non si può dimenticare che quella che è stata un'esperienza ovviamente gravemente negativa e limitativa è stata comunque l'inizio di una storia molto importante, una storia che ha visto il ghetto protagonista, un ghetto cosmopolita, un ghetto che nonostante tutte le limitazioni ha espresso delle cose importanti non solo per l'ebraismo ma per tutta la società circostante. Nonostante una situazione negativa in sé, la cultura ebraica, la tradizione ebraica è riuscita a essere, si è riusciti a mantenere una forte identità, si è riusciti a interagire con l'esterno, non solo creando un patrimonio monumentale incredibile, ma soprattutto un patrimonio di idee e di valori. Obiettivo delle commemorazioni, insomma, è mostrare come da un'evidente discriminazione il ghetto veneziano sia diventato nei secoli una specie di scudo per gli ebrei, un luogo sicuro dal quale trattare con i propri interlocutori esterni, coscienti del fatto di essere necessari alla Serenissima e ai suoi commerci, con banchieri, mercanti e professionisti di vaglia tra medici, stampatori e ricercatori. Alla fine del Cinquecento, in Europa, i giudei sono perseguitati e si susseguono ovunque le espulsioni, mentre il ghetto di Venezia, pur con tutti i suoi limiti e con le costrizioni, sembra quasi una terra promessa per gli ebrei, come si azzarda a scrivere anche Francesco Sansovino nel suo libro Venezia, città nobilissima et singolare. Donatella Calabi, esperta di storia urbana e del ghetto, ci invita a riflettere su questa affermazione. Certo, Francesco Sansovino era un veneziano e aveva tutto l'interesse a celebrare Venezia, però fare un'affermazione così forte come considerarla una terra promessa per gli ebrei, insomma, forse non avrebbe osato farlo se poi non ci fosse stato un minimo di rispondenza a questa affermazione. Sta di fatto che le ondate migratorie successive sono state parecchie e la sensazione che si ha proprio leggendo i documenti d'archivio è in qualche modo il modo di richiamare familiari, parenti, persone che lavorano insieme da parte di chi era presente a Venezia, di ebrei che erano presenti a Venezia e che richiamano persone che vengono dall'esterno, in qualche modo sembra andare in questa direzione. C'erano sicuramente delle regole rigide per cui la chiusura delle porte la sera al suono della marangona, la marangona è la campana di San Marco, quindi a mezzanotte, riapertura alle 6, era una regola. Però la quantità di infrazioni alle regole che io ho trovato all'interno dell'archivio mi fa pensare che appunto ci fosse un certo livello di tolleranza non piccolissimo. E credo che Venezia abbia costituito un modello anche dal punto di vista morfologico. Quando ho studiato i documenti per l'istituzione del ghetto di Padova nel 1603 o di quello di Modena nel 1633, lì ho trovato un riferimento a Venezia come modello in modo esplicito nei documenti, dove questo modello era il campo di ghetto, vale a dire l'esistenza di una contrada all'interno della città, di una piccola città all'interno della città e di un luogo di identità comunitaria. i pozzi, l'approvvigionamento dell'acqua, la pulizia, la presenza delle sinagoghe, la presenza delle botteghe, sono tutti elementi che fanno sì che quella sia veramente una piccola contrada attrezzata rispetto a una città che in qualche modo era esterna. Il ghetto al suo interno diventa la quintessenza del cosmopolitismo che già si respira all'interno della Serenissima. Nel recinto le case, per mancanza di superficie edificabile, si devono sviluppare per forza in altezza. Diventano i primi grattacieli della storia, alti fino a 9 piani. Ci abitano ebrei che appartengono a comunità giunte in laguna dai paesi più disparati, che parlano lingue diverse, hanno costumi e abitudini diverse. Un melting pot con cui si viene suggestivamente a contatto attraversando sala dopo sala la mostra Venezia, gli ebrei e l'Europa, allestita a Palazzo Ducale fino al 13 novembre. È l'evento centrale di questo cinquecentenario, frutto della collaborazione tra la Fondazione Musei Civici Veneziani e un vasto comitato scientifico guidato ancora da Donatella Calabi. La mostra è di lunghissimo periodo, sono davvero 500 anni, arriviamo fino al 900, cioè arriviamo all'apertura delle porte del ghetto con l'arrivo di Napoleone, la caduta della Repubblica, l'arrivo di Napoleone, l'apertura delle porte del ghetto. Che cosa succede quando con un momento di rottura così violento in realtà il ghetto cambia natura? Per arrivare poi anche al 900, dove non vorremmo soltanto insistere sulla Shoah, argomento che non può essere disconosciuto naturalmente, ma insistere anche su altre figure, personalità significative che hanno avuto a che fare con la psicanalisi, per esempio, oppure fondazioni musicali, per arrivare anche a delle figure critiche, contestate dalla storiografia. Margherita Sarfatti è un'ebrea veneziana, è diventata l'amante del duce, ma era anche la più importante promotrice del gruppo del Novecento e delle arti in Italia. Convegni, incontri di studio e concerti si susseguiranno fino a dicembre, ma dal 26 al 31 luglio i riflettori si accendono in campo del ghetto per dare vita a Shylock, il mercante creato dal genio di William Shakespeare. Il cartellone delle manifestazioni prevede infatti la messa in scena del celeberrimo dramma shakespeariano nei luoghi in cui idealmente fu ambientato. L'evento teatrale, attesissimo, vede impegnata una compagnia internazionale, la Compagnia dei Colombari, da un'idea dell'Università di Ca' Foscari e del professor Shaul Bassi, che è anche componente del Comitato per i 500 anni del Ghetto di Venezia. Quest'anno l'anniversario del ghetto coincide con un altro importantissimo anniversario, sono i 400 anni della morte di Shakespeare. Shakespeare ha ambientato due opere a Venezia, Il Mercante di Venezia, la sua commedia più controversa, è in qualche modo virtualmente ambientata nella società ebraica veneziana e quindi nel ghetto, che pure non è menzionato, e quindi abbiamo avuto l'idea di organizzare la prima messa in scena della storia del Mercante di Venezia all'interno del ghetto. Quindi a luglio verrà costruita una tribuna all'aperto, abbiamo avuto la grande fortuna e abilità di trovare come partner una compagnia teatrale internazionale con una regista italiana e quindi con un cast internazionale in lingua inglese con alcuni inserti in giudeo-veneziano. Per la prima volta Shylock, la nostra nemesi, il più famoso ebreo veneziano di tutti i tempi, che pure è una creatura immaginaria ma che ha avuto un'enorme influenza, parte negativa legando l'immagine dell'ebreo al denaro, alla vendetta, ma anche positiva perché in qualche modo questo membro di una minoranza oppressa ha generato molto simpatia per gli ebrei. Dal punto di vista tecnico, quanti potranno avere accesso a questo spettacolo? Per motivi, diciamo, intrinsechi alla fisionomia del ghetto, noi faremo 5 repliche e ci saranno circa 200 posti a serata, e quindi questo ovviamente per noi è un sacrificio, però rispecchia anche la storia del ghetto. La storia del ghetto è una storia di spazi ristretti e anche per noi è importante rispettare il luogo, quindi non potevamo immaginare di occuparlo a lungo, e ci tengo moltissimo a sottolineare che questa produzione è stata creata a Venezia, è stata creata al ghetto, in dialogo con il ghetto. Non volevamo importare da fuori qualche famosa compagnia teatrale shakespeariana, volevamo che fosse una cosa internazionale e quindi appunto sarà nella lingua originale, con attori molto famosi, ma questa è davvero una produzione made in Venice. In tutto questo si innesta anche l'operazione di Venetian Heritage, che ha lanciato una raccolta di fondi per realizzare un radicale restauro del Museo Ebraico di Venezia e completare il percorso di visita delle sinagoghe esistenti in ghetto. Un intervento da 8 milioni e mezzo di euro, ma la fondazione no profit ne ha già raccolti la metà, come ci conferma il direttore Toto Bergamorossi. Sì, siamo molto molto felici perché abbiamo raccolto già 4 milioni di euro su un totale di 8 milioni e mezzo, quindi diciamo che siamo a metà strada. È un progetto molto ambizioso che è nato da un'iniziale collaborazione con la comunità ebraica, perché questo è stato il primo ghetto, l'ultimo tra l'altro rimasto in piedi, quindi Venezia non è stata bombardata nella seconda guerra mondiale, quindi è una unicità che è ancora tangibile, con 5 sinagoghe costruite tra il 5 e il 600 e ancora lì dove sono, dove erano state costruite, e con un museo che è stato creato in modo provvisorio negli anni 50, unendo degli appartamenti che, una volta uniti tra loro, hanno creato questo percorso tra due delle tre sinagoghe antiche. E il nostro desiderio, il nostro compito è quello di raccogliere la cifra rimanente per la fine dell'anno, in modo da poter iniziare il cantiere, diciamo, nel 2017, ma siamo già molto avanti con tutte le fasi progettuali, con le fasi, diciamo, preliminari. Lasciamo che a chiudere il nostro viaggio attraverso 5 secoli di storia del ghetto di Venezia siano le parole del presidente della comunità, Gnignati. Il messaggio che vorreste restasse alla fine di quest'anno, non solo per l'Italia ma per l'Europa. Libertà e giustizia e convivenza fra identità diverse. Nella società complessa bisogna saper combinare, e in una miscela che è sempre difficile da tenere in equilibrio, ma... la storia dell'ebraismo, pur con le drammatiche persecuzioni che anche dopo la caduta delle mura del ghetto abbiamo subito, pur con tutte le difficoltà che sono impresse nella nostra pelle, beh, comunque con tutto ciò noi crediamo positivamente in una società possibile e giusta, e questo mantenendo la nostra identità. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.